Italia in controluce. Ultimo giorno di questo 2010, il 31 di dicembre, la prima edizione. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Il freddo e il gelo rende la vita impossibile per le migliaia di clochard senza tetto che cercano un riparo di notte, soprattutto nelle grandi città. Il reportage di Paola Nania. Dormire per strada a meno 4 gradi, il freddo penetra nelle ossa, i piedi e le mani diventano insensibili. Se si ha la tempra forte si resiste battendo i denti. Nei peggiori dei casi, quelli che fanno notizia, si muore. È successo due volte a Milano negli ultimi 15 giorni, poi a Torino e a Varese. Morti gelide e silenziose. Per capire cosa voglia dire essere invisibili e dormire su un marciapiede con due o tre coperti addosso, abbiamo scelto Milano e seguito per una notte City Angels, il gruppo di volontari che da 16 anni nel capoluogo lombardo porta cibo, scarpe e vestiti ai clochard. Tutti gli altri sono... Siamo davanti alla sede dei City Angels, sono le 9 di sera, tra poco partiremo per il giro nel centro della città e in altre zone calde, tra virgolette, di Milano per aiutare i senza tetto, le persone che vivono per strada. Oggi la temperatura tocca più o meno i meno 3 gradi. Il gruppo è formato da 6 persone, ognuna di loro usa una specie di nome di battaglia. A farci da guida per tutta la notte c'è Charlie. Allora, Rocky... Okay. Condor che è il nostro capo. Allora Rocky, Condor, okay. Condor che è il capo squadra, sì. Onda, Luna che è ausiliaria per ora, Eterea che hai conosciuto Eteria. Prima, io sono Charlie. E io sarò Dani stasera. Dani. Prima tappa tonale dietro la stazione centrale, nel magazzino dell'associazione che vive di donazioni spontanee. Adesso scendiamo e portiamo le cose che abbiamo buttato qui su. Bisogna raccogliere più materiale possibile. Con il freddo sempre più rigido servono coperte, tante coperte, e giubbotti pesanti, maglioni, pantaloni e scarpe. Mi dicevi che il bene più prezioso sono le scarpe. In questo periodo sì, perché le scarpe sono la cosa che loro utilizzano di più, in quanto non sono mai fermi, vagano durante la certo. giornata per la città, quindi le scarpe è il loro unico mezzo di locomozione. Le sporcano, le bagnano e le devono comunque tenere ai piedi, quindi continuano a chiederci scarpe. Rifornimento di tutto il possibile, si parte per il centro di Milano. Ci sono molti senza tetto anche qui. Durante il giorno vengono un po'... diventano invisibili tra i turisti e la gente che corre, soprattutto in questo periodo per fare shopping natalizio, non ti rendi conto. La sera ne trovi tantissimi perché i negozi chiudono e quelli che trovi in giro sono i nostri utenti che aspettano di poter dormire sotto i portici, e per quello che sono in centro, perché hanno un posto un pochino più riparato dove poter stare. Alle 22 il furgoncino con cui si muovono i City Angels si ferma in una stradina tra il Duomo e San Babila. Ci sono 10-15 persone ad aspettare, aumenteranno nel corso della sosta. Come va col freddo? Dove stai dormendo? Qua. Per strada? Sì. E come ti copri? C'è coperte? Coperto, questo morire. Morire di freddo? No, da 8 mesi che sono per la strada. Come mai? Ho perso lavoro e... perdendo il lavoro, si perde la casa, si perde tutto. E l'inverno è duro per strada? Molto duro, durissimo. Ci si sopravvive appena. Senti, tu dormi in giro, qui in centro, sì. In giro per Milano. Ma adesso che fa così freddo, come te la cavi? Mi sono trovato un riparo molto astuto. Molto dove? Tipo banca. Lei da quanto dorme per strada? No, io ce l'ho la casa, però sono senza soldi. E qui, quindi viene a prendere qui un po' di vestiti? Sì, vestiti, cioè la casa è vuota. Sono 2 anni e mezzo che vivo così. E adesso che fa freddo, quantomeno ha un riparo no, alla casa? Sì, 2 o 3 giorni fa una donna di 48 anni è morta, l'ennesima, cioè non è che era la prima, era l'ultima di una lunga serie. Purtroppo speriamo che sia l'ultima, ma non è l'ultima. C'è stato uno, dice che 25 anni, che vive così, un altro 12 anni... in strada. Come fanno quando c'è molto freddo? Si mettono 7-8 coperte addosso, perché una coperta sola muori comunque. Quando va sotto zero è l'unica cosa bella di quello lì che non te ne accorgi. È e niente, si muore, di freddo si muore, punto e basta. Un'ora e mezza dopo la temperatura è scesa ancora, si gela. Prima di rientrare facciamo tappa a Cesano Boscone, nel Milanese. Ci sono 7 rom che vivono in 2 baracche e non hanno nulla. Ad aspettare i volontari c'è Ana, stretta in un cappotto troppo leggero. Le servono vestiti caldi per le sue bambine che hanno freddo. 3 anni, 5 anni... Una tra 5, lì c'è un po' più grande da bambino. Casomai passiamo giovedì prossimo? È molto tardi, tocca tornare indietro. Salutiamo Ana. Ciao, ancora. L'avete bisogno? Grazie. Il numero quando ti servono ancora coperte? Se avete ancora, va bene che la mettiamo così in baracca. Ma dove sono le baracche? In fondo, qua dove c'è la tipo. E ci chiediamo che sonno avranno i suoi figli. La risposta che immaginiamo non ci piace affatto. Ciao, tanto auguri. Ciao. E grazie per tutto. Grazie mille. A Roma scompaiono una dopo l'altra le carrozzelle, dette le botticelle. Il racconto di Alessandra Schebisi. Al centro storico c'è il pericolo di morire avvelenati, per l'amor del cielo. Specie la bestia, poveraccio, che capita proprio con le froce sugli scappamenti. Le schioppa al cavallo, le salute. Addio, ultima carrozzella di Roma. Carrozzella romana che passi di giorno e di sera. Erano in 1000 regine incontrastate del servizio pubblico fino a 100 anni fa, cantate da poeti, immortalate dalla musica e dal cinema. Oggi sono rimaste in 42. 42 botticelle, così le chiamano a Roma le carrozzelle, che zigzagano da mattina a sera nel traffico della capitale, trasportando turisti, ma non solo. Parte integrante e irrinunciabile del paesaggio, delle tradizioni delle città eterna, secondo alcuni, strumenti di tortura per poveri quadrupedi, secondo altri, sulle botticelle a Roma è battaglia. Una carrozzella va, tu stranieri. Cavalli stremati dalla fatica, intossicati dallo smog, semafori ignorati, turni non rispettati, turisti spennati. Gli animalisti chiedono l'abolizione tout court delle botticelle ed eventualmente la sostituzione con carrozzelle a traino elettrico. Con loro alcuni consiglieri comunali dell'opposizione, ma la battaglia è trasversale. Il ministro del turismo Brambilla non le può vedere, così come parecchi parlamentari del PDL che si scagliano contro Alemanno. Tra questi in prima fila Gabriella Giammanco, componente del comitato ministeriale per un'Italia animal friendly. I cavalli corrono durante l'arco di tutta la giornata, spesso e volentieri non vengono rispettati gli orari e quindi le dovute pause che i cavalli dovrebbero fare per riposarsi. Ci sono stati anche tanti incidenti, che è difficile riuscire a gestire un cavallo nel traffico cittadino quando le macchine ti accerchiano e quindi è inevitabile fare degli incidenti. Come mai il cavallo si è fermato? Perché si ferma? Perché lo domanda a me? Domani al cavallo, è lui che si è fermato. Allora, ma non pensa se è combinato? Ah, perché ho combinato, se è fermato il cavallo, vieni che mi danno la mano, stacca la carrozza. E lui, stacca la carrozza al cavallo. Se proprio non si vogliono eliminare queste botticelle, allora le botticelle che si trasferiscano nelle grandi ville romane, che sono molto più accoglienti delle strade cittadine così tanto trafficate. Se riveda spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella. Ma i vetturini respingono ogni accusa e difendono un lavoro che viene tramandato da generazioni. Il smog lo prendiamo pure noi, i tumori li prendiamo pure noi, la gente che... E vengono tutti i tumori. Questi sono tutti i cavalli che escono dai vari ippodromi italiani, che vengono fatti correre, se non corrono vengono topati. Noi perlomeno non li dobbiamo. Quante ore lavorano? Una media di 5-6 ore al giorno. D'estate bisognerebbe fargli evitare le ore calde, cavalli. Infatti lo facciamo evitare. Non capisco perché tutta sta cattiveria verso di noi. Come si chiama il suo cavallo? Riccardo. Sono 3 anni che ce l'ho, eccolo qua. Non si lamenta mai perché mangia, beve e dorme e lavora come lavoro io, come lavoriamo tutti. Che tanto se non sta con me... Sta sul bancone del macellaro, è meglio che sta con me. Quanto alle tariffe gonfiate, i vetturini rispondono così. La tariffa è uguale per tutti, solamente bisogna dirla prima di partire. Quant'è che viene un giro? Un'ora viene 100 euro, mezz'ora 60 euro. Questo è uno spizio, chi vuole se lo paga. Invidio turista che arrivi, Timbevi de fori e de scavi. Ma è lo stesso sindaco di Roma Alemanno a difendere le botticelle, anche se promette di portare presto la questione in consiglio comunale per approntare nuove regole, ma soprattutto più controlli. È un'antica tradizione romana, io vorrei che questa tradizione non si spegnesse. Abbiamo dato regolamenti, stiamo cercando di fare di tutto perché questi regolamenti vengano realmente realizzati e applicati fino in fondo, ma per ulteriore certezza porterò la questione in consiglio comunale e farò decidere al consiglio comunale se questa tradizione deve rimanere. Io penso di sì. Quindi le regole ci sono, ma devono essere rispettate fino in fondo. Abbiamo anche preparato le nuove stalle per gli animali, ci siamo procurati una ambulanza per i cavalli, abbiamo fatto dei percorsi che non sono di affaticamento. Dobbiamo vigilare attentamente perché indubbiamente certe volte i vetturini sono un po' irrequieti. Trotta trotta morello sui ponti del Tevere ancora. La seconda edizione di Taglia Incontro Luce, su radio24.it trovate il blog di questo programma. Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Torniamo il 3 gennaio 2011 alle 6:30 su Radio 24.